Spunti di preghiera nella Divina Volontà. Dal libro Voglio vivere nel tuo divin volere. Prima parte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sorga la mia mente nella Volontà Suprema, per coprire tutte le intelligenze delle creature con la tua volontà, affinché tutti sorgano in essa. Ed io a nome di tutti ti do l'adorazione, l'amore, la sottomissione di tutte le intelligenze create. Dagli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta, la PFDV Libro di Cielo. Vol. 18-novembre 22, 1925. Vieni, Divina Volontà, a pregare nel mio pregare libro di preghiere con brani tratti dagli insegnamenti sulla Divina Volontà dati da Gesù alla serva di Dio Luisa Piccarreta, la PFDV. Allo Spirito Santo. Spirito Santo. Amore immacolato del Padre e del Figlio. Tu, che per un preciso volere hai il Verbo nella Madre incarnato, vieni nel nostro cuore e riempici del tuo divino amore. Tu sei amore sostanziale, poiché sei essenza reale che ci conduce ad amare. Tu hai in te i tempi ed i modi di Dio. Mostrali anche a noi e conducici a divenire come voi. Un unico amore ed un unico volere vi rendono persone distinte e trinitarie. Nell'unica vostra essenza divina che a noi disveli. Prorompi, Spirito Santo amore. Prorompi dagli alti spazi e vieni a prendere sede nel nostro cuore. Manifesta a noi, ogni ora, la verità e rendici aperti a quanto, via via, ci disvelerai. Spirito Santo amore, uno ed onnipotente Signore, donaci lo Spirito del Padre e confermaci nell'amore del Figlio. Tu che sei unità indissolubile di Trinità ed eccelsa meraviglia regale, vieni qui sulla terra e riuniscici in uno stesso spirito. Amore emulato. Amore donato. Divieni in noi amore donante per ognuno dei figli tuoi. Non ti domandiamo più i sette doni, ma agogniamo in noi la tua presenza. Fonte sigillata di puro amore. Vieni ed apri le dighe del nostro cuore, perché tu possa da esso eternamente scaturire. Spirito Santo amore, donaci la tua stessa luce, la tua stessa pace ed il tuo stesso vigore. Amen. Vieni, Spirito Creatore, vieni. O Spirito Creatore, visita le nostre menti. Riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni. Suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore. Sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico. Recca in dono la pace. La tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo amore. Sia gloria a Dio Padre, al Figlio, che è risorto, e allo Spirito Paraclito nei secoli dei secoli. Amen. Dal sorgere del giorno nel tuo volere io ti lodo e ti amo. Padre mio, Signore, apri le mie labbra e la tua volontà in me preghi e lodi. Mi fondo nel mare immenso della tua volontà suprema. O Padre mio e mio Creatore e, mentre i miei occhi si aprono alla luce del giorno, voglio che tutto il mio essere sorga nei confini immensi della luce della tua volontà. Solo in essa io voglio vivere, pensare, respirare ed amare. Nei suoi confini infiniti io voglio girare per tenerle compagnia in ogni sua opera ed in lei darti. O Padre, il mio, ti amo. Sì, Padre Santo, il mio primo atto di questo giorno voglio che sia un atto d'amore per te, nella tua volontà divina. E, nella tua volontà, faccio girare il mio primo ti amo in ogni intelligenza creata, in ogni sguardo d'occhio umano, in ogni parola, in ogni opera, passo, palpito e respiro di creatura. Nell'atto unico ed eterno della tua volontà, vengo con te nell'Eden per legare il mio atto d'amore e l'amore di tutte le creature agli atti fatti da Adamo nella santa tua volontà e con tutti quelli che faranno le creature che vivranno nella volontà divina, fino all'ultimo atto che in essa si compirà sulla terra. Accompagnandoti nei confini infiniti della tua volontà, mi elevo un poco più su nella creazione. Per amore dell'uomo. Per amor mio, tutto tu hai creato, spargendo per me il tuo amore in ogni cosa, nel sole, nelle stelle, nel mare, sulla terra, nell'uccello, nel fiore. In ogni cosa tu hai messo il tuo, ti amo, per me. Ed ecco che io prendo tutto questo amore che per me hai sparso. Lo faccio mio e da te lo offro. Come altrettanti atti di omaggi, di amore, di benedizioni, di lodi e ringraziamenti e gloria a te. O Padre mio, mio Creatore. E girando nella tua volontà, vengo ancor più in alto, lassù nel paradiso e, visitando tutti gli angeli ed i santi, mi unisco a tutta la corte celeste, per darti per tutti e per ciascuno il mio atto d'amore, il mio ti amo, per te, mio sommo bene, Gesù. Ed avvicinandomi alla Regina del Cielo, tu è mia dolce mamma. A lei chiedo tutti gli atti e meriti suoi. Tutto lei mi dona. Ed io, con confidenza di figlio piccolino, prendo tutto. Tutto ciò che ha fatto sin dal suo immacolato concepimento fino all'ultimo suo respiro e, come se tutto fosse mio, tutto offro a te. Maestà suprema, come l'omaggio mio più bello. E vengo a te, Verbo divino umanato, per chiederti di farmi partecipe di tutti gli atti tuoi, il tuo concepimento, la tua nascita, la tua fuga in Egitto, i tuoi 30 anni di vita nascosta e i 3 anni della tua vita pubblica, la tua passione, ogni goccia del tuo sangue, la tua morte e la tua risurrezione ed ascensione al cielo. Tutto tu hai fatto per le tue creature, tutto hai fatto per me e tutto mi doni, e io tutto prendo e facendo tutto mio, offro tutto alla Trinità Santissima in omaggio di gloria e di riconoscente amore. Così, da misera creatura qual sono, posso offrirti il mio atto d'amore. Che, solo in questo modo, è un atto il più completo e santo. Perché nulla di mio ti do, ma solo ti ridò. O Padre, tutta la gloria che ti viene da tutto ciò che tu stesso hai fatto. Gloria che, sola, è degna di te, che sei Dio. Quindi, nel tuo volere io t'amo. Padre mio, nel tuo volere voglio corrisponderti per tutto l'amore che per me hai sparso nella creazione. Redenzione e santificazione. Nel tuo volere voglio darti tutta quella gloria divina che ti deve e che tu ti attendi da ogni tua creatura. Nel tuo volere io vengo. A nome mio ed a nome di ogni tua creatura. Per accogliere tutte quelle vite divine che il tuo amore ha preparate per me e per tutti i miei fratelli e che noi, ingrati, non abbiamo accolto. Ecco che io vengo. O Padre, a ricambiare ogni tua vita in amore. Entro nel mare immenso della tua volontà. Mio dolce Gesù, entro nel mare immenso della tua volontà. Fisso la mia volontà nella tua e ti chiedo la tua volontà come vita mia, come vita di ogni mio atto. Interno, esterno, volontario, involontario. Signore, che tutto sia nella tua divina volontà, per darti il ricambio di amore, adorazione, gloria. Come se tutte le creature ti dessero questo contraccambio completo. CFR Volume 14 27 05 1922 Prega in me. Gesù. O Gesù, ti voglio pregare con la tua voce e, come la tua voce penetrava i cieli e si ripercuoteva nelle voci di tutti, così la mia, facendo onore alla tua stessa voce, penetri fin nei cieli, per darti la gloria e l'amore della tua stessa parola. Un. Gesù. Prega in me. Preghiamo insieme. Nella tua volontà. Con le stesse preghiere della tua santissima umanità. Che faccio mie. Per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Depongo ai tuoi piedi l'adorazione di tutti. Gesù. Depongo ai tuoi piedi l'adorazione. La sudditanza di tutta l'umana famiglia. Depongo sul tuo cuore il ti amo di tutti. Nelle tue labbra imprimo il mio bacio per suggellare il bacio di tutte le generazioni. Con le mie braccia ti stringo per stringerti con le braccia di tutti. Per portarti la gloria di tutti. Le opere di tutte le creature. Preghiera dettata da Gesù a Luisa Piccarreta. Nel destarsi. Gesù guardami. Affinché anch'io fissandoti possa guardarti nella tua volontà e tu possa ricevere il contento d'essere guardato con uno sguardo divino. O Gesù. Del. Fa che il tuo sguardo m'inondi di tanta luce da trasfondermi tutto in te. E mentre i miei occhi si aprono. Fa. O Gesù. Che splenda in essi la luce del tuo volere. Così. Immergendomi nell'immensa luce della tua volontà divina. Sarò con te. Luce a tutti per farti conoscere. Luce per impedire la colpa. Luce per farti amare e per far conoscere a tutti il tuo santo volere. Il mio primo pensiero sorge e corre a te. O Gesù! E baciando i tuoi pensieri, si fonde nella tua intelligenza e prende vita nella tua volontà. Insieme con te voglio diffondermi nelle intelligenze di tutti per raccogliere i pensieri di tutte le creature e darti l'omaggio, l'adorazione, la sottomissione di tutti. Intendo. O mio Gesù, nella mia prima parola, di prendere tutte le armonie del cielo e avvicinarle a tuo udito per farle risuonare in te. E tu, o Gesù, unisci la mia parola alla tua e prendila da me come parola tua, per farti sentire per mezzo mio l'eco di una parola divina e così soddisfare il tuo udito per tutte le molestie delle voci non rette delle creature. E mentre le mie labbra si schiudono, o mio Gesù, la mia voce corra nella tua volontà per farla mia. Risuoni in tutti i cuori e li scuota. Voglio, con la tua volontà, accendere tutti il fuoco, il tuo amore, e raccogliendo tutte le volontà delle creature come se fossero una sola, voglio offrirle e darti a nome di tutti amore divino, gloria divina, riparazione divina. O mio Gesù, la mia debole natura si mette in attitudine, ma è tanta la mia insufficienza che non posso far nulla. Perciò prendo vita ed attitudine nella tua volontà, e come il tuo volere è vita e movimento di tutte le creature, così io voglio mettermi in attitudine nella tua volontà per essere il pensiero di tutti, perché tutti ti comprendano. Aprendo la luce dei loro occhi, perché guardino solo il cielo, la voce della loro bocca per far loro abborrire la colpa, e farti sempre lodare, l'azione della loro mano perché la indirizzino a te, il passo del loro piede per incatenarlo in te in modo da non far cadere nessuno nell'inferno, il palpito del loro cuore per far amare te solo. O mio Gesù, il tuo volere riempia tutti e nel tuo volere bramo che le creature fruiscano da te tutti i beni possibili, come se tutti avessero fatto i loro atti nella tua volontà. Fusione dell'anima nella volontà di Dio. Nell'umanità santissima di Gesù. Gesù. Fonditi in me ed io mi fondo in te. Gesù. Facciamo tutto insieme. Fondiamoci a vicenda nella volontà, nei desideri e nell'amore. Per potermi fondere nei desideri, nella volontà, nell'amore di tutte le creature, affinché tutte restino rinnovate nel tuo volere. E poi fondo tutte le mie piccole particelle nelle tue per potermi fondere in tutte le particelle delle creature. Per darti per tutte quell'amore, quella gloria e quella soddisfazione che tutti ti negano. E ti chiedo di suggellare questo mio atto. O Gesù, con la tua benedizione per me e per tutti. Vita mia. Gesù. Mi fondo tutto nella tua santissima umanità e divinità. Parte per parte. Perché la tua umanità, per centro di vita, la divina volontà e chi vive in essa vive in questo centro diffondendo luce dovunque e a tutti. Fondo quindi. Mio Gesù. La mia intelligenza nella tua intelligenza. La mia memoria nella tua memoria. La mia volontà nella divina volontà. Fondo il mio sguardo nel tuo sguardo. Il mio olfatto nel tuo. O Gesù. La mia voce nella tua voce. Il mio udito nel tuo. Fondo le mie mani e le mie